con la sua compagna si trova a disagio, che è ancora consigliere comunale del PDL. Lui è ancora... No, non è consigliere comunale. Non è più consigliere comunale. Lo è stata, ma non mi trovo a disagio, altrimenti non sarebbe politicamente, politicamente. Chi voterà? Lei voterà. Magari la mia non lo so. Non gliel'ha chiesto votami, non gliel'ha detto almeno votami. No, ma no, come no? Me l'ha detto. Gli avrà detto amami, perché... non votami. Cosa esatto. Anche votami, scusa, ma è un caso, cioè, credo che sia l'unico caso in cui la compagna non vota per il suo compagno. È la modernità. No, ma non è la modernità. Io confido che lo faccia, che voti per me. Però capito, comunque appello dalla Zanzara, appello alla compagna. Si è fatto l'appello, vuol dire che non è scontato. Questa è la notizia. Non è scontato. Non è scontato perché non abbiamo parlato. Non ne riparleremo fino al voto. Quindi questa sarà l'unica. No, non è possibile. Non ci coglioni. Questo non ci credo. Non ne parlo. Perché se ne parlate litigate? No, perché ecco, ma cosa le ha detto? Vogliamo e dobbiamo parlare d'altro. Quando lei ha lasciato il PDL, sì. cosa le ha detto? A questo sei punto un pazzo, sei un temerario. M'ha detto, dove vai? Mi ha detto sei sicuro? E poi mi ha detto, però posso dire che addirittura alcuni giornali ne parlavano ancora prima che io lo facessi, quindi insomma sa come la penso. Sì, comunque l'appello, Davide, c'è stato l'appello. L'appello, io riesco a stare. La notizia è questa. L'appello, votami, ti prego, amore, votami. Madda, la chiama Madda o Maddalena? Maddalena, ti prego, amore, votami. La chiamo Maddalena. Madda, anche sì. I momenti. Lo faccio, magari a caso in Italia. No, ma l'ho fatto prima. Ho detto, Maddalena, se avrai, se hai maturato la decisione di votare per il PDL, com'è possibile, dato che so che... Ma è troppo complicato, è un pippone, 30 secondi, Madda, virgola, amore, votami, questo è... Chiedo scusa se ho messo in bocca delle parole. Ma vanno benissimo. Chiediamo scusa. No, vanno benissimo. Però insomma, qui alla radio dico, Maddalena. Tesoro. Almeno questo. Almeno Amoruccio, quello. Amoruccio, dico qualcosa. Allora, Maddalena, se anche se... hai deciso di votare PDL, ricordati che puoi votare per me perché c'è il voto disgiunto, quindi ricordati l'amore che insieme al voto disgiunto allora posso fare una sintesi, l'amore congiunge, il voto disgiunge.